5, prova radio. Ci sei? E io? Fatto, fatto, io non ci penso più. Prima di mettere i gaggiuli si guai, magari comincia a tremare la cosa, mi fa sempre così. Me ne accorgo anche per quello io quando me ne dimentico. Ascolta a me, c'era un... il clarifer è spostato, come va adesso, meglio? Adesso il segno tutto a Giuseppe, che ho fatto già i segni del mic. Ce l'ho a metà il microfono, non è a manetta. Poi quando a manetta splatterà tutti i canali, un casino, l'ho anche detto. Ah, spuglio quel microfono, ti sto dicendo che l'altro giorno ero sul canale 7, lui era, mi pare, sul 36, roba del genere, lo sentivo. Lo sentivo chiaro, ma non di splatter, ma proprio chiaro. Ma la radio o il microfono? Sentiva lui parlare, capito? Sentiva lui parlare chiaro, chiaro, come se fosse nel canale. Non era di splatter, perché se di splatter si capisce che è splatter, ma si sentiva chiaro, come se fosse quel canale lì. Giuse, chiamandolo. E invece era in un altro canale. Poi ho cercato ed era su che stava controllando, non so che cosa. Infatti gli ho detto, Giuse, occhio, che quella cosa sta andando, a me non mi ne ha fottuta, ma secondo chi trovi si incazza, perché le mani spuglie. Boh, io adesso l'ho provato su tutti i canali e non fa niente, non fa niente. Comunque, cosa mi dici la radio, allora va bene? Ehi, no, ma non è l'MB+5, tu l'MB+5 c'hai, e quell'altro, quello della Integra che c'ha, che esce un bel forte. No, io ho l'MB+5, che l'ho tutto rifatta nuovo, già. Mi ha portato la radio sua e l'MB+5. E gliel'ho tutto rimesso a posto. Smontato dentro, smontati i potenziometri, puliti con la trilina, rimontati, fatto il cavettino di massa nuovo, il cavetto del connettore nuovo, era tutto un astratto, e i fili andavano a tirare, quindi entrati bene dentro con il termorestringente, e fatto come Cristiano, venne messo davanti a là. Pulito tutto il microfono con l'arco, lavate i pomelli, messi i segni neri che ci andavano, che li hanno tolti, per la regolazione, insomma, fatto come Dio comanda. Adesso sembra che stia andando bene, perché lui ogni volta che lo usava si metteva a fischiare. Boh, non gli ho compreso perché fischiava, te lo credici? Dice, non so perché fischia, non so perché fischia, tutti i miei nastrati hanno trasolante. È un pirla. Perché è un pirla, no? Guarda, vedete, se te lo cedo bene adesso. Sta andando con 6 watt. Qua sei anche forte se il segnale. Con la, vabbè, sicuramente non l'ha fatto manco lui, gliel'avranno fatto. Quella cosa lì. Sto scherzando, stavo. E l'avranno fatto, perché quando ce l'avevo io non usciva così con l'apparecchio, usciva forte, ma forte però, Senti questo quanto esce bene. Ma questo non esce piano, questo esce benissimo. Esce benissimo, aveva 4 watt, li ho riportati a 6 watt pieni, e a me non mi interessa la radio, capito? C'è la radio, il baracchino. Mi interessa la radio, come sta uscendo il microfono, lui me l'ha portato per sistemare il microfono. E il microfono è sistemato, va bene così. Era tutto, c'erano le cosettine da fare. E poi il connettore, l'ho aperto, l'ho rifatto, gli ho messo il nastro, il termorestringente, tolto tutto il nastro isolante che c'era dentro, i potenziometri tutti smontati, insomma il microfono l'ho tutto aperto, tutto smontato, e poi gli ho cambiato, gli ho messo tutte le viti nuove a questa radio, perché c'erano le viti per legno, a testa piatta, qua ci vanno quelle tonde, su, originali, piccoline, nere. Come le viti per legno? E le viti per legno c'erano nel coperchio di sopra, allora, e nei due laterali vanno bene, mentre sopra c'è le viti per legno, proprio per legno, capito? Quelle viti marroni autofilettanti, piatte, per legno, le ce li ho anche io, dentro una scatoletta. E allora gli ho messo le viti sue originali, perché queste sono originali, sono proprio di coperchi di baracchini, nuove, nere, sue, a testa tonda, capito? Che sono quelle della Kenwood, che ne ho comprato una bustina, e gliel'ho messe nuove. No, no, lì sopra c'erano, nel caso c'era poi stato un casino, me. Lì sopra, quello te lo posso giurare, te lo posso, guarda, lì sopra c'erano le viti a testa tonda, le viti a testa tonda proprio per quel coperchio lì, cazzo, chi se te la porti dietro? E io te lo posso garantire, guarda, che c'erano quelle. Vabbè, tu chi le ha messe non è un problema, sta fatto a me vedere se porchini non mi piace, quindi gliel'ho messe tutte al mondo. La radio è perfetta, è nuovissima, è in buonissimo stato, e va bene così. Chi era messo male era il microfono, adesso il microfono va bene, è così. Lo usa a casa e c'è una stazione base bella e ordinata. Avanti Gianni. Gianni si trumido. Mascherato. Io te lo posso garantire, cara, quello lì c'aveva il coro, c'aveva le viti sue, c'aveva la testa tonda sopra, ed era perfetto, era, il tappo era verniciato perfettamente, perché era verniciato una persona, dai, che stai parlando adesso, era perfetta la radio, non c'aveva niente. Capito, quindi non posso essere sicuro. Ehi, dai, non è un problema quello. Ciao maschera, buonasera, ben sentito. Allora, NB, questo è questo è un urometro, va bene, e questo qua sono le stazionarie Signal Watt. Vatti, questo lo cerca a chiudere. Va bene, eh? Ok, ciao Fabri, buonasera, ben ascoltato, avanti. Buonasera anche a te, sotto l'antuna, sotto la chiagiale. Avanti Claudio, e fai girare. E Fabri, ciao, buonasera anche a te, ben ascoltato. Mi ascolti bene nei radio adesso? Ok, vabbè, c'è per caso Gianni in doppio lui. Ciao Fabri, buonasera anche a te. La prossima volta che ti vedo che stai fumando e butti la cicca per terra, scendo dalla macchina con l'erbo del muro e ti prendo la mano. E dove mi hai visto buttando la cicca? Alla rotonda provviso, ieri, capito, con quell'altra macchina grigia. Stai fumando e l'ho buttata al corpo. Poi ti metto l'antico sul giornale che facciamo la sporca. Fattamona. Io ero alla rotonda ma non ero al mare, sono andato così a farmi un giro, mi sono fermato 5 minuti lì, è vero. E invece lì, è vero, tu ero andato fino alla macchina grigia e tu mi siete seduti questa lampa che legno, capito? Ma allora non è ieri, avanti. Era avanti ieri, dai, non è che avevi le cose, ma sotto sulla spalla, dove non si è sceso, vi siete seduti alla cosa, la panca e legno, capito? Dopo la prossima volta scendo la macchina e ti prendo la mano con il nervo del due. Va bene, dai, fallo. Cappa. Ti stavo dicendo, potevi anche avvicinarti e dire sono Fabrizio Mascherato, presentarti, ti avrò messo in mare. Non potevo, capito, ero lì ma non ero una vettura, non potevo scendere, capito? Ah, così. Cosa c'avevi? Le catene? No, c'era una bella signorina a fianco, era un'altra questa signorina e non potevo dire, no, guarda, non è a salutare quei due cb abusivi. E dire la verità che vi paura che te la fregassimo. Ma che quello è vero. Allora riprendi anche tu. Qualche giorno ti vengo da dietro. Proprio a me. Sì, cerca tu anche signoria. A me, cazzo. Oh. Tanto ho mezzo inquadrato chi sei. Non tu sei già 3 anni inquadrato, chi sì, mi sei già sotto controllo, sarà bravo. Come on, sarà bravo. O se no già lo sai, alla ciccia. Scherzando. Come sto arrivando, maschera? Ma sai tu, vedi, uno che sembra un braccio di ferro e lui. Capito. Com'è il braccio di ferro? Così è. Allora, la bocca come un braccio di ferro. E via, e via. Fabrizio, Fabrizio, io non lo conoscete a Fabrizio. Ma ce ne sono due che assomigliano. E no, un'altra volta li ho visto uno facendo, se fosse possibile che sia lui, che stava facendo ginnastica dove c'è la pista ciclabile, è possibile Fabrizio? Ma non mi sapevo poco, i gosi. Accidenti, eri solo, non è che il consiglio lì qualcosa, non è che stai facendo niente di... Me lo dici Fabri che sei gay, ogni volta ti vedo io sei sempre con uomini, perché non glielo dici? Io non ho mai visto quel signore, lui sta sempre solo. Quando tu sei solo non mi si chiamava nessuno. Ma guarda, la torretta, bevendo, ubriacandosi. No, no, la prigione invece è entrata, no, ma la torretta è vera, già la piagia. Ma quanto tempo non esci tu? A me quei gelati non piacciono, quelli scusi che fanno loro non mi piacciono. Ma cosa ne capisci tu i gelati? Sei abituato a mangiare la roba che fanno lì a industriare, che ti mettono tanti dei conservati e tu manco c'è capito in testa, solo perché ho stato spendendo miliardi in pubblicità, sono buono. Ma già. Ehi? Guarda, ti posso garantire, ma te lo garantisco per iscritto, che Fabrizio mi disgiuro Coca-Cola. Perché tutte le volte ci siamo trovati alla torretta, lui sempre Coca-Cola beve. Ma così è. Qualche giorno vola dai gas che c'ha. No, io lo compro, scusa, ma non mi piacciono i gusti, non mi piacciono i gusti che c'erano lì, capito? Io scusa, lo compro, ma lo posso comprare a Capriccio, lo posso comprare d'Ernesto, lo posso comprare a, cosa ti posso dire, Lungomare, la gelatina Lungomare, lì li fanno, hanno molti gusti, c'è l'imbarazzo della scelta, lì c'è pistacchio, torrone, tutta roba che non mi piace. Ma sai cosa ho perso dei giorni, ma non c'è molto movimento. E noi ci vanno tutti i gusti, e tengono una gelatina che c'hanno all'interno, capito? C'hanno tutti i gusti, del Fiat, li fanno loro. Poi ci sono dei giorni, che non è che poco come un po' carichezza, invece di togliere tutti i gelati e rimettere lì, mettono più o meno quelli che possono andare. Se poi se ti dichiedi i gusti, ce li hanno. Oh, arrivo subito un secondo. Scegliere. Guarda la vetrina, quello che c'è, esci da lì, non è che devo sapere cosa c'è dentro loro o no, è un modo sbagliato di fare commercio quello, la gente deve vedere per chiedere, è la stessa cosa che tu vai ai baracchini sotto banco e che se non li metti in vetrina a farli vedere, e uno pensa che non ce l'ha manco te la chiede. Un attimino torno subito. Ma allora, vabbè, comunque fanno così, no? Tutti i nomi che vedi lì, le etichette, ce l'hanno, capito? Vabbè, no, io c'ho una bella Coca-Cola, non ho trovato un caso, se no ce la bella, anche gli alcolici, però di notte, l'altro giorno, di fine non bevo mai, prima di guidare, beh, già, non bevo, non ho capito. Poi basta, ti bevi magari un vino, una birra, un cazzo, ti becca, ti rompono i coglioni per niente. E vabbè, io l'ho fatto l'alcol test dopo che l'ho bevuto 2 bicchieri di vino, ho mangiato qualche cosa e poi mi ho fatto fare l'alcol test e non risultavo positivo. Vabbè, ma tu sai benissimo che dipende anche dal tipo di fisico, tante cose. C'è quello che ho capotto, ho messo 2 bicchieri di vino, c'è quello che magari che se beve 3 e non è positivo. Dipende dal fisico, come reagisce e come lo incamera l'alcol. E poi quando siamo tornati alla festa di Ussie, quando siamo usciti c'era un posto di blocco che c'erano 4 pattuglie di carabinieri e ti facevano entrare obbligatoriamente, tutte le macchine dovevano entrare nella colonna, infatti c'era tutta la colonna delle macchine, una a una le controllavano tutte. Ma stavo visto da Rishado. Ma a me come mi hanno visto mi hanno fatto passare dritto perché mi avevano già fatto la contesta, perché c'era prima di partire, se volevi potevi fare la contesta per vedere se eri in condizione di metterti alla guida. Io l'ho fatto e mi hanno detto no, assolutamente niente, per curiosità poi ne ha bevuto, e ho detto ho due bicchieri ma ho mangiato anche, no, ma dice vede che con due bicchieri non sale, come dicono tanti che dicono che sale l'alcol con due bicchieri, non è vero, quando ne bevi quando sale è perché ne hai bevuto più di due bicchieri, due bottiglie. Allora avevo come una spuma, avevo una spuma in tutte le ore. Avanti, anche là. Io bevo acqua, bevo acqua, hai capito, maschera? No, il vino, la birra la bevo solo fine settimana quando non lavoro, non faccio niente, sono durato la settimana, acqua neanche frizzante, acqua naturale. Quindi no, Iuia, no, non mi fa ragionare bene, se no, no. Lasciamo stare quella roba lì. Ma non è l'acqua della rubetta, perché l'acqua della rubetta di sassetto per curate, non è bene. Ah, se la attacca la cura va al rubinetto, poi bisogna per lavarsi, serve. Bisogna deve lavarsi l'acqua del rubinetto, per bene c'è l'acqua delle bottiglie. E poi c'è la macchina di cazzo d'acqua di Abano, è stato un disastro. E qui ti hanno acqua sporca, te la fate in barra al dubbio. Cappa. Ma non accompagna avanti, già anda, vai. Il problema è l'acqua che ci hanno messo le mani a Ciona e sta inquinando tutta l'acqua. Ah, fate scherzi così, era buona di uso. Adesso c'è un po' di cazzo per apri, senti l'odore, poi ti posso dire come che sia, che ti sia terriccio a me, non so quel profumo della terra, un po' identico. Odore di muffa, come ha detto Alessio. No, sto scherzando, comunque io mi ricordo che quando ero bambino io si faceva l'acqua frittina con l'acqua del rubinetto. E l'acqua del rubinetto era buona, non aveva sapori di nessuna cosa. Si faceva l'acqua frittina. Ma andando con le bambine stai correndo troppo indietro, ma fino a pochissimi anni fa, ma pochi, l'acqua era sempre buona, la tubazione era sempre gratuita, adesso non c'è su cazzo guardi la banana, è sempre schifosa, è gialla, è puzzolente, sapete che la fate più bella? Era ma stai te ne vai, No, lui sì. Ma dove mette la banana? E Gondotti, il comune di Sassari che deve cambiare, non deve cambiare la banana. La banana è gestore, ricordatelo. È il comune che non fa niente, capito? Per rendere l'acqua più potabile, amata, ne deve varie. No, ma vabbè, questa qua, ma già 10 giorni, cazzo, che c'è, l'acqua è puzzolente, ma capito, vista, è quello che so dove, lo sentivo qua a casa, l'ho sentito anche a quattro mani al bar, capito, poi anche lì, come si chiama, l'altro bar che c'è la rotonda, la stessa puzza, quindi non è roba di pesca, non è cazzo, ci sono da cazzo, stiamo mettendo in mezzo. Dove letteralmente ci sciacquano l'acqua allora nel balcone, Evidentemente c'è con le fave, tu. E allora esci buziosa, esce. Allora perché si è già tutto sentito però l'acqua da ciao, così di odore, sembra l'olio di terriccio, l'olio blu di terra, ma è strana, è schifosa, questa l'ho contattato con diverse parti della città, quindi. E l'odore del cloro praticamente svanito, capito, non è altro, è che siccome già da un po' di tempo non stanno più usando l'ipoclorito Fabri, stanno usando la cloramina direttamente in rete, evidentemente ancora non si sono bilanciati di quanta ce ne va, e quindi si sente questo odore così perché è molto più forte. Ma in ogni caso vi posso garantire che è controllata dall'acqua e quindi non muore nessuno, non fa niente, non sono parametri che possono far male, capito? Sono sì, c'è qualche parametro sicuramente fuori norma, ma è solo per quanto riguarda la cloramina, per il resto l'acqua è abbastanza potabile, se non abbiamo problemi. Ah, quindi sono onore, strano, che però non ti ha problemi alla salute. No, a me non l'ho piaciuto, è l'ipoclorito di sodio che non stanno più adoperando perché ha un sistema che quando arriva praticamente in rete, perché nel momento in cui va iniettato in vasca va bene, rimane stabile, nel momento in cui l'acqua parte per essere iniettata in rete, quindi con le pompe di sollevamento che poi vanno con i partitori, insomma c'è un sistema particolare, non arriva alla fine, quindi quando tu apri il rubinetto praticamamente non c'è più ipoclorito di sodio, si svanisce. Quindi hanno adottato il sistema della cloramina che è molto più forte e quindi sicuramente ancora, visto che è un sistema nuovo, non si sono ancora adeguati alla percentuale che va iniettata in rete e quindi si sente questo odore un pochino più forte, ma non è assolutamente dannoso per niente. Non si muore, si muore con i parametri alti di altre cose, nitriti, nitrati, ammoniaca e così via, quello si muore, oddio, si va incontro a delle malattie, ma l'ipoclorito, la varichina non ammazza nessuno, state tranquilli. Comunque non le bevete voi, io manco le balle mi lavo, figurati, mi lavo cosa, con l'acqua San Giorgio. Perché a volte sbagliano con l'ammoniaca, qualcosa, e mi dica una volta c'è anche già la dal rubinetto, una volta ho fatto uno scherzo a mia moglie, eravamo ancora, diciamo, non eravamo ancora sposati, però avevamo già comprato la casa e doveva tutta prepararla per il matrimonio perché eravamo quasi per sposarci. E stavo lavando tutte le mattonelle quando ce l'hanno consegnata, mattonelle, piastrelle, cose, è arrivato in bagno, io sono andato a Platamone, ho preso 4-5 rane e praticamente li ho messi nella vasca, quando lei ha aperto il rubinetto sono saltate le rane, mi ha chiamato, Gianni, sto facendo le rane dal rubinetto. Sì, già voglio vedere le rane dal rubinetto, sai come fanno a uscire? Io già le trovo negli impianti, nei depuratori, sì, lo sai, ci è andato tu con Antonio di Locca, già ci sono, ma dal rubinetto non ce la fa, dalle condotte, quando apriamo le saracinesche, quando che sono i bocchettoni larghi, sì, ma non rane, no, rospi, che è ancora peggio. Quindi vabbè. No, quelle lì erano quelle di Platamona, quelle che escono quando piove, no, le avevo trovate, avevo messo una bottiglia. E cosa stavo dicendo? Che praticamente, oltre che vedere le rane, ho visto anche certi tupi di notte camminando al bordo delle vasche, allucinanti. Nei depuratori dove... Lì già non sono tupi, sono dei gatti, insomma. Lì bisogna stare attenti perché se si mettono dritti ti mangiano. Che... Allora, una volta praticamente sai come funziona lì, c'è il quadro, quando scatta l'allarme cerchi di farlo ripartire, se non riparte devi chiamare il tecnico che c'è praticamente reperibile. Siamo andati con Antonio, abbiamo fatto un giro per vedere come stava andando la situazione perché l'ha fatto ripartire, però voleva appurarsi che stavano tutto bene, ha preso la pila, siamo usciti a farci il giro con la pila, ragazzi, un insulto allucinante, una iatta vera un barì. No, lì bisogna stare attenti, soprattutto in quell'impianto, cioè bisogna stare molto molto attenti perché ce ne sono un bel, e ti giuro che, ma non perché io ci lavoro eccetera, ma ogni 15 giorni viene l'impresa e mette, pulisce tutto, gli aspiratori e mette medicina a tutto andare. Però purtroppo è il sistema, capito? Sono fogne, quindi nei depuratori è normale. Nei potabilizzatori ne ho visto qualcuno in qualche impianto proprio di sollevamento di acque bianche, ma nel potabilizzatore vero e proprio no, assolutamente. Quello no. Però nei depuratori già lo sai, cioè se l'arrivo alle fogne è normale che dopo viaggi per mangiare il grigliato e poi arrivano le fogne stesse, perché i topi, quelli di campagna, se tu li butti in acqua annegano subito, ma quelli di fogna cazzo si mangiano i pesci nuotando, sono più veloci dei pesci. Già lo so, sì. E poi avevamo visto due dove c'era il camion sotto, non so se si è mai andato lì, c'era il camion sotto l'impianto dove ci sono i fanghi, il camion che carica i fanghi e poi li va a buttare alla discarica. C'è quella specie di silo lì. E di lì ne abbiamo visto altri due. Oh cra, bianco per me, dai! Ce la risentiamo dopo! Ehi Anto, dai, ci sentiamo dopo, già sono qua, intanto sto sempre, sono sotto controllo con questa radio di, questo, soprattutto il microfono, la radio non mi interessa, va benissimo, soprattutto il microfono qua di Giuseppe. Ehi, adesso l'hanno fatto tutto nuovo, già adesso ci sono le coccole nuove, quindi mandano direttamente dentro i cassoni, è tutto un sistema, tu devi vedere, nuovo, è costato 40 milioni di euro alla comunità europea, quello è stato fatto con i fondi della comunità europea, bellissimo quell'impianto. L'altro è completamente dismesso, praticamente lo stanno bonificando ancora. E quindi si entra sempre da lì, però si va giù in fondo, capito? Avanti Fabri. Non sarà vero, no? Dove andate? Fai sciopero. Giappa. Vabbè, andiamo un pochettino più tardi, dai. Ma a che ora devi entrare? Tanto le 3:10 sono. Non me ne sono mica accorto, no? E lo lasciamo riposare a Babbo, dai. Tanto un altro pochettino di più e poi vado. Si sveglia, ossia che poi si dimentica che deve andare a lavorare. Non si dimentica. Cosa c'è bella? Cosa c'è? Sempre più vesti mi fatti, sagliata. Allora, guarda, ma io ne ho ucciso due di gatti, ho fatto la cacciatore, sapore bello. Perché non ti uccidi tu, brutto delinquente? Si mette a testa in giù. Non ci metti male, sono buoni gatti. Allora come ti ho come grasso e magro? Cosa Fabri? Stavo dicendo Antonio, se il gatto è grasso e magro. Già è grasso quello, già è buono, non ti preoccupare. Già l'ho visto, è un gatto di quelli doc. Io penso che i suoi vagiani tu non riesci a magnatirlo. Non si fa manco avvicinare, credo, che te buco è maro. No, sto scherzando, quello vai a fare del male agli animali. A qualche salano lo sparirei, ma all'animale no. Vuoi parlare poi? Vuoi dire qualcosa? No, qui c'è una digitigliata enorme. Lo mangi più solino. Ma lei è un coso, come si chiama? Cosa c'è a noi? Cosa c'è? L'ho fatto fare io. Ma si intende che è arrabbiata? E se c'è quello di Natalino, c'è saluta Claudia, fate miau. L'ho fatto arrabbiare io. Perché gli ho toccato la coda e non vuole. È intelligente. Vieni piccolina, vieni. La presenza? Sì. La tempesta. Ok, dai. Chi dov'è? È un cazzo, eh. Prendiamo anche un omero, ne? Scavalgato non ci tocca, non ti tocca, ma ti tocca il culo. Si tocca la cola al gatto, non toccare la cola al gatto. Va bene, va bene. Già non ne do più rumo, dormito dici? No, ma gioco a cuscino. Addormenta, piccato un po', addormenta, bisogna avere tutta la sera a stare in radio. Riposati un po', io sono qua perché ho promesso a Giuseppe di mettere a posto sto microfono. E quindi lo sto provando, ma tra un po' mi sdraio anche io per pesare la schiena, capito? Gli ho fatto tutto un braccio piano piano, ma già ci sono riuscito. E almeno lo usa sta radio, almeno la usa. Speriamo che non lo tiri questo cavetto. Era tutto intrazzato. Ma sta buttando una paravanza e non lo tira. Se per esempio, cioè, anche questo microfono che è dal mare, ce l'ho sotto la manca appoggiato, non lo tiro perché non c'è bisogno di metterselo, è come un microfono a tavolo, non c'è bisogno di metterselo vicino alla bocca, si sente già così. Ehi, vabbè, adesso già gliel'ho fatto bene, anche se lo tiro non succede niente, era sganciato, era là dentro, capito, era sganciato. L'ho agganciato bene, gli ho messo il suo supportino bello stretto e poi c'è il nastro, quello termoristringente, perciò non le fa niente ai figli adesso, già va bene. E infatti sta andando benissimo perché io sono in cuffia e mi sto ascoltando e sta andando bene. Va bene Gianni, dormiti dai, tu vai a lavorare Fabri, io rimango in quel Rix e se coincide ci sentiamo dopo, dai. Ok, vi saluto a todos. Ehi, lascia, ciao, cara, è bella, dritta, fate le giacche per un medio. Io ho capito, non è il capo, questa ragazza, non fa manca, c'è la mattina a sera. La mattina te ne vai, sono infortunio, mi Fabri, c'ho la spalla bloccata, sono tutto mobilizzato. Ho avuto un infortunio al lavoro. Picchia, te l'ho chiesto. La spalla mi ho lasciato, c'avevo il... La spalla gira per contrario, ho fatto anestesia la settimana scorsa, l'ho messa a posto, sono automobilizzato fino al 21 giugno e poi si vedrà. E succede, succede. No, una di quelle pedane, di quei passaggi in ferro sopra un carro ponte, si è staccata la pedana e sono andata a finire giù. Che cazzo, è una cosa? E dal punto dove sono sceso io sono a 6 metri. Ma fortunatamente era pieno d'acqua, quindi però sono caduto male, poi mi è caduta la passerella sopra la schiena, quindi è tutto aperto, c'ho punti nel braccio, nella mano, capito? Casino. Cazzo, da dove? Sto c'era vuoto, ne avrei tanti nomi sicuramente, con i tubi che ci sono sotto, sarà cinesche, sarei crepato. È andata bene, dai, è andata bene. Purtroppo si è staccata, non si sa come. Comunque hanno fatto la perizia e sembra che si sia dissaldato proprio dal lato, dai due lati dove va mantenuta, dove c'è il ferro a L, capito? E quindi no, sono delle passerelle nuove che hanno fatto non molti anni fa. Sono zingate, sono nuove, buone, proprio un difetto. A pensare che la mattina stesso io appena sono arrivato, e arrivo molto presto agli impianti perché poi c'è sole, mi viene male fare i controlli eccetera, sono passato quattro volte nella stessa passerella, capito? Alla quinta volta ho recuperato dritto. Spero che vado giù. Ehi, sia positivo, dai. Io già sono in ascolto qua sul 10, intanto tengo sotto controllo questo coso qua. Dai, sentiamo dopo se coincide Fabrizio. Sono qua tagliato e nella poltrona, niente di particolare. Ci sentiamo dopo, ciao Antonio, Fabrizio e Gianni, dai, eventuali ascoltori. Buon pomeriggio a tutti, a più tardi. Yeah, ciao cara, già ci sentiamo. Vabbè, ciao Antonio, forse ha chiuso, e Gianni se mi stai ascoltando, ci sentiamo al prossimo. Gianni già sarà duro, ci dai.